Ciao, io sono Laura Voltolina e questa newsletter è La normalità è il contrario della luce. Spesso, che sia alla fine di una lezione di gruppo o durante una sessione individuale, capita che qualcuno faccia riferimento a qualche difficoltà che sente, dicendomi: beh, è normale, no? Guido da anni percorsi destinati alle donne e la frase più gettonata è: beh, ma i dolori mestruali sono normali, no? Quante volte ti capita di pensare a qualcosa che riguarda te o la collettività e che trovi spiacevole ma sopporti comunque, perché tanto è normale? Ma cosa significa normale? La risposta ha molto a che vedere con la nostra felicità, anche se in questo momento potrebbe non sembrarti. La norma è uno strumento da carpentieri e serve a tirar su muri dritti. Norma significa quindi conforme alla regola, cioè all'angolo retto. Ma normale è andato oltre, si è infilato nel resto delle nostre vite in modi subdoli, senza che ce ne accorgessimo. Normale si usa per le persone, come giudizio su cosa sia accettabile e cosa no. Si basa sull'idea che esista uno standard oggettivo che dovremmo lottare per raggiungere. Una regola su cosa ci serve raggiungere o essere per essere degni. Degni di cosa? Beh, di essere amati e amate, accolti e accolte, e sostenuti e sostenute. Normale però è un'illusione. Quello che è comunemente previsto, prefissato per essere normali e quindi accettati, è appunto un'idea esterna. Siamo tutte e tutti talmente diverse tra di noi che a ben guardare quella normalità lì è impossibile da raggiungere. Non siamo mica una parete, in fondo. È anche un'idea molto velenosa. Il rischio è di essere tutta la vita qualcuno che non siamo. Il rischio è di sprecare il potenziale della nostra inimitabile unicità. Il rischio di passare il tempo a giudicare noi stesse, noi stessi e gli altri, in base allo standard di quella che abbiamo imparato a considerare normalità. Smantellare il concetto di normale e abbracciare la nostra interezza, che è sfaccettata e luminosa, è un dono per noi e per il resto del mondo. Vuoi farlo insieme a me? La bussola interiore a ritrovare la direzione è il percorso online che guiderò a partire da lunedì 9 ottobre, cioè lunedì prossimo. Puoi partecipare in due modi: durante 4 lunedì in diretta alle 19:30. Queste dirette qui non saranno registrate e sono offerte con uno sconto pazzesco solo alle persone che sono qui dentro, nella newsletter. Sono stata sgridata, ciao chicca, perché il contributo così ridotto potrebbe far pensare a chi non mi conosce già che il percorso valga poco. Perché non è normale nella nostra società che un prodotto valido sia offerto a un costo basso. Se vuoi partecipare alle dirette al costo non normale di 25 euro, scrivimi entro domenica 8 ottobre. Puoi partecipare anche seguendo 6 lezioni registrate fatte apposta per chi non segue le dirette. Durano 40 minuti e saranno a disposizione dal 6 al 26 novembre. I temi dei 6 moduli e delle 4 dirette sono gli stessi, ma la struttura degli incontri è totalmente diversa perché la modalità di fruizione è diversa. Guarda i temi sul sito e scrivimi subito. Martedì 24 ottobre dalle 20 alle 21 guiderò una lezione aperta di yoga e mitologia solo per chi riceve questa newsletter. Vuoi partecipare? Ti basta scrivermi e ti inserisco nell'elenco delle persone che riceveranno il link. Le parole che ho scelto per noi oggi sono di L. Arnost dal suo 2000 baci. Non lasciarti sgomentare dalle fratture del mondo. Tutto si rompe. Tutto può essere aggiustato. Non con il tempo, come dicono, ma con l'intenzione. Quindi vai. Ama in modo intenzionale, stravagante, incondizionato. Il mondo, a pezzi, aspetta al buio la luce che sei. Un abbraccio luminoso. Laura.